Allora, per questa meditazione io ho pensato di riprendere insieme con voi, cioè di tornare su un'idea che mi è venuta e che mi viene spesso, direi che mi viene tutti gli anni in modo crescente quando arriva la festa di San Luca Evangelista, perché lo stesso discorso, la stessa idea potrebbe venirmi anche quando c'è la festa di San Matteo, San Marco, San Giovanni, però non so come mai, forse anche perché effettivamente si presta molto Luca a questo approfondimento, cioè è l'idea che ciascuno di noi, lui dimostra con il suo Vangelo, no? Che ciascuno di noi lo sappiamo bene, no? Perché ci è stato detto tante volte, l'abbiamo e anche sperimentato nella nostra vita, ciascuno di noi ha una vocazione unica, cioè ciascuno di noi è unico come persona, no? Davanti a Dio e davanti alla Chiesa e davanti a tutto il mondo, no? Noi questo lo sappiamo, abbiamo anche imparato, il nostro fondatore San José Maria ce l'aveva molto chiaro questo, no? Quindi gli piaceva anche viverlo e insegnarlo, no? Che ciascuno dei suoi figli spirituali avesse una sua personalità e non solo non la perdesse, no? Nell'unificarsi. Come gli altri, cioè nell'assomigliare agli altri nello spirito dell'opera, ma anzi la vocazione all'Opus Dei in qualche modo la rafforzasse, cosa che è giusto che avvenga per tutti i cristiani, no? La vocazione battesimale rafforza la nostra unicità come creature, no? Quindi noi, ciascuno di noi è stato creato unico davanti a Dio. Da Dio, no? E unico tra tutti gli uomini che possono nascere, no? Che sono nati lungo la storia dell'umanità e che verranno al mondo. Siamo proprio unici, nessuno può prendere il nostro posto, può sostituirci. E l'incontro con Cristo rende splendente questa nostra unità. Addirittura sappiamo bene che, cioè, ci insegna l'Apocalisse che in qualche modo anche ciascuno di noi ha una vocazione unica, no? Nell'ambito della fede cristiana, nell'ambito della fisionomia spirituale dell'Opus Dei. Infatti nostro padre diceva abbiamo un piccolo denominatore comune e un grandissimo numeratore diversissimo. Ci diceva nell'Opus Dei quanto più siamo diversi gli uni dagli altri è meglio, meglio è, no? Perché indubbiamente in questo modo si manifesta che il cuore della nostra vocazione è l'essere. Cioè è la chiamata alla santità secondo uno spirito particolare che ha una sua fisionomia ben definita, ma però l'essenza dell'opera è che tutti siamo chiamati alla santità, quindi viverlo noi per poi diffonderlo, cioè che le situazioni ordinarie della vita sono luogo di santificazione e di apostolato. Per cui le situazioni ordinarie della vita sono poi simili ma anche molto diverse, quindi e ciascuno di noi ha un compito nella storia dell'umanità, un compito nella storia della Chiesa, un compito che il Signore ci dà come creazione. Quando ci ha creato ha pensato a noi in un certo modo e noi possiamo dare un contributo unico al mondo e alla Chiesa, e l'incontro con Cristo nella Chiesa, la luce della vocazione che illumina il nostro battesimo, mette in evidenza la bellezza della nostra unicità. Allora, perché mi viene in mente questo quando arriva la festa dell'Apostolo Luca? E forse perché è il terzo dei sinottici, per cui si legge prima Matteo, poi si legge Marco, poi arriva finalmente Luca, anche se mi ricordo che quando insomma, iniziavo la direzione spirituale come giovane liceale a Milano, nel centro che allora si chiamava Delta T, no? Perché i fondatori avevano pensato all'incremento di temperatura che i ragazzi liceali potevano trovare in quell'appartamentino di via Ruffini 5, e adesso si chiama semplicemente Delta, poi ha cambiato sede ed è diventato più grande. E allora, parlando con Don Umberto, lui mi introdusse alla lettura quotidiana del Vangelo e mi suggerì, potrei anche chiederglielo come mai mi suggerì questo, lui forse si è dimenticato, però di cominciare da San Luca. Forse perché pensava che leggendo tutti i sinottici poi uno si poteva un po' annoiare, non lo so. O forse perché, conoscendomi con la sua profonda intuizione, sapeva che il Vangelo di Luca e poi quello di Giovanni, insomma, avrebbero potuto più facilmente colpirmi al cuore e rimanere profondamente impressi nella mia vita. Infatti sono senz'altro i Vangeli che più... insomma, che più predico, che più, insomma, mentre per esempio San José Maria predicava più volentieri sul Vangelo di San Matteo, cioè più frequente la citazione di Matteo, no? In San José Maria. Invece per me sicuramente è più frequente Luca e Giovanni, no? E poi alle volte non mi accorgo che Vangelo sto citando, no? Perché uno lo cita un po' a memoria. Però nella vita di Lu, nel Vangelo di Luca a me colpisce sempre pensare che Luca, cioè se non ci fosse stato Luca, se Luca non avesse scritto questo Vangelo, se non avesse seguito questa sua peculiare vocazione unica a essere evangelista del terzo Vangelo, noi... cioè la nostra fede cristiana è un periodo ipotetico dell'irrealtà, evidentemente, però la nostra fede cristiana sarebbe terribilmente decurtata, la nostra vita interiore, la nostra vita di preghiera, la nostra vita liturgica, no? Sarebbe monca. E per cui io sono molto grato a Luca, no? Perché leggendo il prologo, l'altro giorno lo rileggevo, no? Nella festa di San Luca, e lui comincia così: poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo. Cioè illustre amante di Dio, o amico di Dio. Ma lui con questa premessa avrebbe potuto perfettamente dire, poiché molti hanno scritto, eccetera, io chi me lo fa fare, no? Di mettermi anche a me a scrivermi, a cercare, a fare questa fatica ad ordinare. Molti, quindi molti, non sono solo Matteo e Marco, saranno molti altri, alcuni saranno perduti, altri saranno stati considerati apocrifi, quindi non ispirati dallo Spirito Santo direttamente, come la Chiesa considera questi Vangeli, la Chiesa stessa ricevendoli li ha considerati parole di Dio, no? Poco a poco, a volte, no? E poi lo ha definito nel Concilio di Trento, ma li ha cominciati a leggere nella liturgia, no? Per cui, però, nel momento in cui lui ha cominciato, non poteva sapere di avere questa ispirazione, io penso, no? Di essere uno dei quattro evangelisti, non c'era neanche il quarto, non c'era. Insomma, era una fase molto iniziale e ha avuto questa grazia di Dio e l'ha seguita, ha avuto questa ispirazione dello Spirito Santo e l'ha seguito, non si è lasciato fermare dalla difficoltà, no, di fare queste ricerche o dal fatto che altri avessero scritto. E di fatto lui ha detto delle cose grazie alle ricerche che ha fatto, grazie alla sua sensibilità, che gli altri due sinottici, o anche San Giovanni magari scrive dopo e quindi magari non le dice perché già Luca le ha dette, ma che altri non hanno detto, non hanno detto, no? Voi pensate che Luca, si suol dire che il suo Vangelo ha tre grandi parti, cioè ci sono i Vangeli dell'infanzia, poi l'inizio del ministero di Gesù, poi il viaggio verso Gerusalemme che per lui diventa, è molto lungo, occupa molti capitoli, e poi come per tutti gli Vangeli, il mistero pasquale, no? La cattura, il processo, la morte di Gesù in croce, la sua risurrezione. Ebbene, Luca, peraltro, ecco, noi dicevamo anche prima nella messa, no? Leggendo una parte del Vangelo di Luca in cui parla dello Spirito Santo, è anche considerato l'evangelista, cioè diciamo soprattutto per gli Atti degli Apostoli, no? Gli Atti degli Apostoli che sono dello stesso autore, e sono considerati dello stesso autore. E ecco lì è considerato il Vangelo dello Spirito Santo perché lo Spirito Santo si vede come protagonista dell'evangelizzazione, no? Lui appunto porta le persone di qua e di là, gli apostoli vedono che lo Spirito Santo è sceso anche sui pagani, da che cosa lo vedono noi non sappiamo, però lo vedono, no? E Luca lo dice poi. Si lasciano ispirare, si lasciano cambiare la testa dallo Spirito Santo, no? Quindi Luca è esperto di Spirito Santo, no? E senz'altro pensate ai Vangeli dell'infanzia, è vero, Matteo ha seguito una tradizione, ma senza Luca noi non conosceremmo Zaccaria, come nasce Giovanni Battista. Elisabetta, quella vicenda dell'apparizione dell'angelo nel tempio e poi il suo non credere, il suo mutismo, come pena che il Signore gli dà perché lui possa convertirsi e credere davvero, no? E grazie a Maria che va a casa sua, lui arriva a credere. E non conosceremmo l'annuncio dell'angelo a Maria, pensate quella. La pala d'altare che voi avete qua, che ammirate, no? Durante la celebrazione della messa, e l'angelo del Signore diede l'annuncio a Maria, tutta questa immensa devozione della Chiesa per il momento dell'incarnazione. E non conosceremmo la nascita di Gesù a Betlemme, il suo essere messo nella mangiatoia. Gli angeli che annunciano ai pastori, i pastori che vanno ad adorare questo bambino che è il segno che Dio è veramente venuto tra noi. Non conosceremmo la presentazione di Gesù al Tempio, quindi non conosceremmo Simeone, Anna, tutti questi inni che la Chiesa continua a recitare ogni giorno nella liturgia delle ore, il Magnificat, alla sera, il Benedetto, il Benedictus, nell'Odi del mattino, il Nunc Dimittis, no? Ora lascia che il tuo servo vada in pace, che la Chiesa recita nelle preghiere della sera. No? Pensate, nel ripensare a queste cose, alle peculiarità di Luca, ho notato che non l'avevo mai messo in evidenza che quando Gesù comincia il suo ministero a Nazareth, che entra nella sinagoga e comincia a dire, ecco, a leggere Isaia, lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare i poveri lieto annuncio, e tutti lo ascoltano con gli occhi sgranati, e lui dice: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato, e tutti si sorprendono, ma non è costui il figlio di Giuseppe? E Luca dice: voi certamente mi citerete questo proverbio, medico, cura te stesso. gli altri evangelisti non portano questo proverbio. Luca, che è medico, annota questa cosa, no? E ci sono anche altri aspetti in cui i commentatori. Luca è chiamato il caro medico da San Paolo ed è quello che è rimasto con lui quando tutti l'hanno abbandonato. Solo Luca è con me, no? E altri aspetti che i commentatori vedono, ecco, perché era medico, allora forse, non so, ha notato per esempio il sudore di sangue di Gesù nel Getsemani, cioè ha recepito attraverso la sua formazione professionale, quindi il suo modo di essere nel mondo, alcune cose che lui ha sentito raccontare e che ha messo nel suo Vangelo, no? Quando, oppure lui annota cose che gli altri evangelisti non fanno, quando racconta nella passione di Gesù, no? E racconta appunto il suo Getsemani. Che gli apostoli si addormentano, no? E a causa della tristezza, e più o meno questo è quello che io mi ricordavo, ma non so, adesso che dormivano per la tristezza esattamente, cioè come medico vuole dare una spiegazione, secondo le nozioni di allora, al perché si erano addormentati, no? Mentre gli altri apostoli dicono semplicemente che gli altri evangelisti, che questi discepoli si erano addormentati, no? Allora, voi pensate che, per esempio, questo è un aspetto molto bello della vita cristiana, che lo Spirito la permette un po' in evidenza, cioè noi siamo persone del mondo e stiamo in mezzo al mondo grazie alla nostra, anche alla nostra professione, no? Quindi anche al nostro stato di vita, no? Chi è sposato, chi è padre o madre di famiglia, quindi ha una sua posizione, come dire, nella società, e poi la professione gli dà una posizione nella società, no? E questa caratteristica professionale ci dà una mentalità laicale, cioè una mentalità di chi sta in mezzo al mondo. Quindi è comprensibile che noi guardiamo il mondo secondo l'ottica che ci dà la nostra professione, cioè che è il nostro modo di essere in mezzo al mondo. E questa nostra professione ci aiuta. Tanto è il modo in cui noi aiutiamo il mondo, no? Noi diamo un contributo al mondo attraverso la nostra professione e appunto anche il nostro apostolato è basato su che cosa? Sul battesimo che abbiamo ricevuto. Noi non riceviamo, cioè questo adesso è molto chiaro, anche il Vaticano II l'ha spiegato molto bene, ma quando l'opera è nata non era così chiaro, cioè era molto più presente, come dire, il fatto di ricevere un mandato della gerarchia, un mandato del vescovo per compiere il proprio apostolato in mezzo al mondo, no? E invece ha battagliato anche molto per il nostro San José Maria, il fondatore, il nostro padre, perché si riconoscesse al cristiano la possibilità di fare apostolato per il solo fatto che è battezzato, cioè non aveva bisogno di un mandato della gerarchia. Quindi dal punto di vista ecclesiale perché siamo battezzati, dal punto di vista sociale abbiamo la nostra riconoscibilità con la situazione che noi abbiamo nel mondo, e spesso e volentieri la posizione sociale, che so, ma proprio ecco, quanto è presente, che so, la mamma che siccome ha i bambini a scuola e lei ha tutto il diritto di ovviamente, di partecipare alla riunione dei genitori, di dire la sua, e in questo ambito la mamma conosce altre mamme, no? E fa amicizia con altre mamme e dialoga sulle cose della scuola, sulle cose della classe, sulle cose. E nell'ambito di questa amicizia, quante volte nasce una confidenza che diventa presto o tardi, ma a volte anche immediatamente apostolica. Perché cioè perché nasce quella amicizia? Perché siamo tutte e due mamme di bambini che stanno in quella classe. Allora c'è la possibilità di confidarsi sui problemi della vita e quella tra le due che ha una luce più chiara sulla fede cattolica, sulla fede cristiana, sulla possibilità che so, di confidarsi da un sacerdote, no? A me succede frequentemente, no? Che allora una mamma mi presenta un'altra mamma che allora a quel punto ha un dialogo con un sacerdote che può anche sfociare, se lei lo desidera, in un aspetto sacramentale, no? Nella confessione o in un consiglio che da parte del sacerdote è un consiglio sacerdotale, no? Che poi è preceduto dall'amicizia personale di queste due persone ed è seguito anche dall'amicizia personale, cioè quindi il sacerdote interviene in un certo momento, dà il suo contributo che può essere indubbiamente anche sacramentale, può portare la grazia del perdono, può portare la grazia dell'Eucaristia, la grazia dell'unzione dei malati. Però poi il dialogo, diciamo, apostolico prosegue, è preceduto e prosegue tra queste due mamme, queste 10, no? Cioè a livello personale può essere con 10, 100, no? Però probabilmente è con un numero ridotto perché poi il tempo della persona che non fa dell'apostolato la sua professione, ma fa della sua professione o del suo essere nel mondo un luogo di apostolato. E il tempo è limitato perché poi bisogna fare anche altre cose, però con questa luce tutte le circostanze della vita possono diventare momenti di propagazione del Vangelo. Ecco Luca, che era medico, mette questi. Cioè è ovvio che si nota che è medico attraverso piccoli aspetti del suo Vangelo. Poi evidentemente aveva un'ottima conoscenza del greco, il suo greco è il migliore di tutti, e poi aveva una mentalità storica molto precisa per cui si vede che il greco cambia. Quando parla lui fa questo prologo perfetto, bellissimo, no? Capolavoro anche letterario, poi dopo arrivano le testimonianze appunto di quello che è successo a Zaccaria, Elisabetta, Maria, e il greco perde qualità, no? Magari ci sono più semitismi, si nota più che sono traduzioni da un aramaico che c'è nel sottofondo, e lui rispetta questa fonte, cioè non la cambia col suo greco, diciamo, classico, no? E forbito, lascia l'autenticità della fonte e da questo gli esperti notano la sua sensibilità storica, la sua correttezza anche, ecco, documentale, no? E così, andando avanti, noi notiamo, potete notare tante altre cose in cui Luca dà il suo contributo unico. Il racconto della pesca miracolosa del capitolo quinto di San Luca, dove Gesù dice a Pietro: vai al largo, prendi il largo e gettate, prendi e gettate, no? Prendi tu il largo, cioè guida la Chiesa verso le profondità del mondo e poi tutti insieme gettate le reti per la pesca. E poi quella sentirsi Pietro davanti a lui peccatore perché vede questo miracolo in cui probabilmente lui non credeva anche quando ha preso il largo, no? Aveva una fede molto fiacca, dico, cosa potremo fare a quest'ora, no? E cosa ci può insegnare questo maestro che non è pescatore, no? E così andando avanti ci sono altri aspetti, noi dobbiamo ovviamente saltare, no? Però insomma, saltare un po' di aspetti del Vangelo di Luca, però per esempio un altro aspetto in cui, che è solo di Luca, e mi piace collegarlo anche questo a Maria, è il racconto della vedova di Nain. Solo lui ce l'ha, quindi uno può ipotizzare che sia stata la fonte che risale a Maria o Maria stessa, no? Che lui può aver conosciuto. Ci sono tante tradizioni di Luca, pittore di Maria, che probabilmente non hanno una veridicità storica, però è la sensibilità della Chiesa che sa che Luca è molto collegato a Maria. Lui ci parla di Maria come nessun altro, cioè anche Giovanni ha le nozze di Cana e Maria sotto la croce, che sono episodi importantissimi, però noi abbiamo questi racconti dell'infanzia e la vedova di Nain, alle porte della città Gesù la incontra, si commuove di fronte al suo dolore, va dal figlio, lo fa resuscitare, glielo dà a sua madre, madre vedova di un figlio unico, come poi accadrà a Maria alle porte della città, quando suo figlio morirà. Forse questo episodio aiuterà Maria a custodire la speranza nella risurrezione. Ecco, questo episodio ce lo racconta solo San Luca. E pensate che un altro episodio bellissimo di San Luca che racconta solo lui al capitolo settimo è quando è Gesù con la peccatrice di quella città, no? E nella casa di Simone il fariseo, e questo è molto importante per noi oggi, per noi oggi, molto importante anche per comprendere quale visione ha Gesù del corpo umano. Lui si è incarnato anche per ridare valore alla creazione iniziale, no? Dell'uomo e della donna. Dio stesso dà valore al corpo umano. Nascendo da donna, dà valore al corpo della donna, ed essendo lui uomo, dà valore al corpo dell'uomo, che in qualche modo, forse col peccato originale, potevano essere appunto essere stati feriti, anzi sono stati feriti, ma poi soprattutto nella nostra mentalità poteva esserci una ferita, no? E invece questa donna peccatrice si rivolge a lui baciandogli i piedi, lavandoli con le sue lacrime, riempiendoli di profumo, asciugandoli con i suoi capelli, con un gesto che al fariseo Simone sembra un gesto di peccato, sembra un puro toccare, no? Un solo toccare, no? E invece Gesù con una parabola gli fa capire che legge nel suo cuore e lo porta verso di sé a capire che quella donna lo sta amando e l'amore cancella i peccati, e l'amore verso Dio, no? Verso Gesù, attraverso la sua umanità, che è la strada che Dio ha scelto perché noi arriviamo a Lui. Noi abbiamo festeggiato San Luca il 18 di ottobre, poco prima, 15 ottobre, Santa Teresa. Santa Teresa di Gesù dice chiaramente che questa è la strada per incontrare Dio, è l'umanità di Cristo. E dobbiamo sperimentare l'intimità con l'umanità di Cristo, no? Se io quel giorno che ho letto nel breviario uno scritto di Santa Teresa che avevo letto tante volte, mi ha colpito molto e l'ho un po' fatto conoscere, ho fatto qualche messaggio di WhatsApp a qualche persona e mi pare che che tutti abbiano apprezzato molto questo scritto di Santa Teresa, no? Diceva così Santa Teresa: chi ha come amico Cristo Gesù e segue un capitano così magnanimo come lui, può certo sopportare ogni cosa. Gesù infatti aiuta e dà forza, non viene mai meno e ama sinceramente. Infatti ho sempre riconosciuto e tuttora vedo chiaramente che non possiamo piacere a Dio e da Lui ricevere grandi grazie se non per le mani della sacratissima umanità di Cristo, nella quale Egli ha detto di compiacersi. Vi ricordate Dio Padre che dice: questo è il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto? In cui dobbiamo saper leggere che Dio Padre si compiace in noi, figli nel Figlio, no? Ne ho fatto molte volte l'esperienza e me l'ha detto il Signore stesso. Ho visto nettamente che dobbiamo passare per questa porta se desideriamo che la somma maestà ci mostri i suoi grandi segreti. Noi Gesù, seguendo questo suggerimento di Santa Teresa, che San José Maria prende e ci rilancia, noi ci proponiamo ancora una volta di non avere paura, di non fare come Simone Fariseo che ha paura di quel tocco perché pensa che sia un tocco di peccato. Non dobbiamo avere paura di toccare il costato di Cristo, di baciarlo. Io più audace perché più bambino, diceva nostro padre, no? In quel mistero del rosario. Sulla risurrezione ho avvicinato le mie labbra al suo costato aperto, diceva San José Maria. Ho visto, diceva Teresa, che dobbiamo passare per questa porta se desideriamo che la somma maestà ci mostri i suoi grandi segreti. Non bisogna cercare altra strada, anche se si è raggiunto il vertice della contemplazione, perché per questa via si è sicuri. È da Lui, Signore nostro, che ci vengono tutti i beni. Egli ci istruirà. E gli dobbiamo chiedere: Signore, aiutaci, insegnaci. Maria, tu che conosci così bene l'umanità di Cristo, Maria Madre, no, che abbiamo conosciuto attraverso il Vangelo di Luca, meditando la sua vita non si troverà modello più perfetto. Che cosa possiamo desiderare di più quando abbiamo al fianco un così buon amico che non ci abbandona mai nelle tribolazioni, nelle sventure, come fanno gli amici del mondo? Beato colui che lo ama per davvero e lo ha sempre con sé. Guardiamo il glorioso Apostolo Paolo, che non poteva fare a meno di avere sempre sulla bocca il nome di Gesù perché l'aveva ben fisso nel cuore. E così via, continua Teresa. E pensate che Luca, come anche gli altri evangelisti, ma ci porta un'umanità di Cristo. Noi conosciamo la sua umanità, sappiamo che a Gesù gli fa piacere essere accarezzato, no? Essere baciato. Ma tu, Gesù, ne hai bisogno anche adesso. Perché pensiamo che in cielo non c'è bisogno di amore? In cielo c'è tutto l'amore, c'è l'esagerazione dell'amore, c'è la diffusione dell'amore. Però tu, Gesù, che hai voluto mantenere in te, misteriosamente, ma io penso per questo motivo, anche per altri motivi, ma le piaghe, pur essendo corpo risorto, vuoi dire che desideri che noi entriamo nella tua umanità? La piaga del costato attraverso cui tu fai entrare Tommaso è significativa del tuo desiderio di essere amato. E allora noi desideriamo seguire questa strada, no? San Luca ci presenta, pensate, ecco, nel lungo viaggio che fa Gesù verso Gerusalemme, ci presenta l'incontro con Zaccheo e solo lui ne parla. Gesù che alza lo sguardo per incontrare personalmente Zaccheo, come vuole incontrare personalmente ciascuno di noi, e dice: scendi che vengo a casa tua, oggi devo fermarmi a casa tua. Gesù che e le parabole della misericordia sono proprie di San Luca. Non avremmo senza il suo Vangelo, senza il suo corrispondere personalmente alla grazia che solo a lui il Signore dava. E noi in questo dobbiamo prendere esempio, perché alcune cose il Signore le chiede solo a noi. In in quel momento, in quella circostanza della vita, solo noi possiamo fare quell'azione di bene, solo noi possiamo aiutare quell'amico, quel figlio, quel marito, quella compagna di classe, so quello che sia, quel collega, quella persona che incontriamo estemporaneamente, no? Recentemente mi è successo, io mi avevo nella casa dove abito abbiamo alcune macchine, poi ce le scambiamo. Allora sono andato a un viaggio verso Como e poi tornavo e ecco, però ecco, mi contrariavo perché in quella macchina che avevo preso non c'era il telepass, no? Per cui dico, bisogna fare una piccola fila e bisogna poi tirare fuori i soldi, sempre scomodo il portafoglio, no? Con la cintura di sicurezza, ma è un po' un pasticcio, ma poi bisogna tirare giù il finestrino, affacciarsi, magari fa freddo, e poi il biglietto. E entro dal casellante, e no, in realtà in quel caso non c'era fila, era una mattina, naturalmente, dal casellante e dico. Lui non mi guarda, no? Non mi accorgo nemmeno, gli do quello che gli devo dare, mi può dare una ricevuta? Allora lui dice, beh, mi impegnerò, cercherò proprio, cioè fa la battuta perché dice, vediamo se riesco a dare una ricevuta, insomma, una battuta di questo tipo, come dire, certo gliela do perché sono qua per questo, non posso fare altro. E allora prende la ricevuta e quando me la dà, e si accorge che sono sacerdote, ovviamente dalla camicia da sacerdote che portavo, e allora ha un gesto di stupore e dice, e allora si confida, io guardo lo specchietto, non c'è nessuno, perché sono preoccupato di, non c'è nessuno, e quindi lui continua a parlare, io guardo lo specchietto, guardo lui dice, ah, reverendo, ma io credo in Gesù Cristo, ma non tanto nella Chiesa. E comincia a confidarsi in pochi secondi, a confidare la sua vita, no? La sua vita. Infatti io intanto nel frattempo pensavo, adesso questo come gli rispondo? Cosa? Insomma, però non mi sono venute in mente brillanti idee e semplicemente gli ho dato retta e lui a un certo punto ha detto. Sì, si sentono dire tante cose, però se voi preti, no? Intendeva, se voi venite meno, qua crolla tutto, voi dovete resistere, no? Cioè, rispetto a tutto. E allora mi ha dato un bel sostegno, però io sono con il Papa, io sono. Poi mi ha citato un film dove il protagonista è un missionario, ecco, se lei vede quel film, io sono di quel genere lì, sono d'accordo con i preti di quel tipo lì, quelli che vanno in missione, quelli che. Ma lei è con me? Dico, sì, io sono con lei, sono d'accordo con lei. E così è stato un dialogo. E poi lui mi ha detto, se torna da queste parti, mi raccomando, ecco, guardi se ci sono io, così continuiamo il discorso. No? Ecco, certo, questo è il vantaggio del prete, se quando ha un piccolo segno della sua, a volte succede così, a volte succede che lo insultano, non so, a volte succede un piccolo incontro, ma questo però succede anche al cristiano normale, no? Perché poi chi ha la luce della fede si vede negli occhi, no? Dallo sguardo, si vede dal sorriso, si vede dalla serenità nonostante le difficoltà. Anche poi la gente sa che è così, no? Per cui allora possiamo vivere la parabola del figlio prodigo, no? L'abbraccio del padre verso il figlio che torna da lontano, no? Oppure possiamo vivere personalmente o aiutare il cielo, pensate voi, aiutare il cielo a vivere quella gioia di cui parla San Luca, dice, quando Gesù parla della pecorella smarrita, no? Che il pastore va, lascia le 99 ovine, va. E poi quando la trova lo dice a tutti gli amici per fare festa e Gesù aggiunge che c'è più gioia in cielo per un peccatore che torna, un peccatore pentito, che per 99 giusti. E quindi c'è gioia nel cielo, no? Il cielo non è fissità, il cielo cambia, il cielo ha più gioia, eh? quando accadono di queste cose nella nostra vita quotidiana. Pure la donna che ha perduto una moneta, che poi chiama le amiche e così via, no? E poi ovviamente potete pensare, così concludiamo la meditazione, che insomma potremmo continuare sulle peculiarità di Luca, ma pensate solo al buon ladrone. Al dialogo di Gesù, anche questo mi piace pensare che sia la tradizione che viene da Maria, perché lei era sotto la croce e lei da donna può aver annotato nella sua memoria quello che è su quel dialogo, averlo ascoltato, averlo conservato nel suo cuore e poi raccontato, e arriva a San Luca. Signore, ricordati di me quando sarai in paradiso. E poi, se volete, che è un episodio bellissimo del Vangelo, che dà una luce meravigliosa a quel momento drammatico, no? E poi, se volete, quell'incontro con i due discepoli di Emmaus, che pure è peculiare solo di Luca, il racconto, no? E Gesù che cammina con noi, Gesù che vuole dare, e lo ripetiamo adesso, che vuole dare al nostro incontro a tu per tu, no? Con gli amici, dirci: io sono presente con voi, no? Quando voi camminate sulle strade del mondo. Sapete che, ecco, San José Maria in una sua omelia dice: Emmaus, questo è il nome di tutti i cammini divini della terra, no? E io sentii dire, poi andando in Terra Santa si nota che ci sono più tradizioni su. Non si sa con certezza assoluta, ma pare la strada di Emmaus. E su una di queste adesso c'è una casa di incontri dell'Opus Dei, che per i ritiri, per gente di tutto il mondo, ma ci sono anche altre strade, e secondo me questa incertezza è per dirci: la strada che tu percorri tutti i giorni, quella è la strada per Emmaus, la strada in cui tu dialoghi con un tuo parente, un tuo amico, un tuo conoscente. Lì, quando tu parli, c'è Gesù, e se noi ce ne rendiamo conto, accade come accade a quei due, che stanno chiusi nella loro mentalità solo terrena, precisissima, sanno tutto quello che è successo, ma non vedono con la luce della fede. E invece nel nostro apostolato personale, nel nostro dialogo con Dio, nel nostro dialogo tra di noi, dobbiamo aiutarci ad accendere la luce soprannaturale, la luce della fede, no? In quel dialogo, perché sia presente Gesù, e perché sia presente, che Gesù si faccia presente. Poi dopo lui, e come dice quel racconto dei discepoli di Emmaus, lui, quando lo riconoscono, scompare, non c'è più bisogno di lui, è presente tra di noi. In quel momento si è fatto vedere, perché noi sempre nei nostri dialoghi con gli uomini ci rendiamo conto che lui è con noi.